La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 1 di dicembre, 16.32, primi 13 secondi, siamo in diretta qui dai studi di Milano di Radio 24, Oscar Giannino come tutti i pomeriggi vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto, in diretta o in podcast, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalare temi, ospiti, proporvi con storie che vi riguardano. E subito andiamo all'argomento della giornata, perché c'è una novità molto rilevante che riguarda tutto il pubblico impiego, quindi cari ascoltatori, sia che voi siate dipendenti pubblici, perché come capirete tra qualche secondo la novità vi riguarda e come, sia che invece non siate dipendenti pubblici, però veniate indotti a dirci come la pensate su questo argomento, chiamateci 800 24 00 24, come sempre, per intervenire in diretta per gli sms 349 238 6666. Sorpresona, perché dopo aver dibattuto per più di un anno, quando era in discussione in Parlamento, prima il Jobs Act, cioè la legge delega, e poi quando il governo stava preparando i decreti attuativi di applicazione appunto della legge delega, uno dei temi più ricorrenti era quello posto dal seguente interrogativo: ma il Jobs Act, e in particolare la riforma dell'articolo 18 sul licenziamenti, si applica o no ai pubblici dipendenti? La risposta del governo, dopo che il dibattito fu molto acceso, io sono intervenuto molte volte sul giornale in cui scrivo dicendo ma il governo faccia questa cosa, lo dica esplicitamente, e però contemporaneamente per mestiere richiamavo le sentenze numerose della Corte Costituzionale negli anni che sono tornati più volte sull'argomento dicendo ma il pubblico impiego in relazione ad alcuni articoli della Costituzione, in particolare l'articolo 97, quello sull'imparzialità, quindi l'assunzione per pubblico concorso eccetera eccetera, in più occasioni la Corte Costituzionale ha ribadito che la disciplina del pubblico impiego resta caratterizzata dalla specialità di un rapporto dovuto all'esigenza del perseguimento di interessi generali. Alla fine della fiera, alcuni, come il senatore professor Piero Ichino, continuarono a dire ma no, si applica automaticamente il nuovo articolo 18 ai dipendenti pubblici, però l'interpretazione alla fine passata era no, non è così, riguarda solo il mondo privato. Sorpresa, perché il 26 di novembre, e si è saputo solo ieri, la Corte di Cassazione assume una decisione che invece ribalta questa interpretazione corrente, e lo fa in una maniera che adesso ci verrà illustrata, che non ha dubbi, per così dire, è proprio chiara, per tabulas. La Corte di Cassazione, investita di un procedimento che riguarda un dipendente pubblico siciliano, con l'interrogativo esplicito ma si applica oppure no l'articolo 18 riformato, risponde sì, automaticamente sì, cari pubblici dipendenti in ascolto. Una notizia bomba che i giornali ieri non hanno capito, ne ha parlato oggi solo Sole 24 Ore, ci ha aperto Norme e Tributi e avrei ben voluto vedere, ne ha parlato anche Italia Oggi, gli altri giornali non si sono reso conto di questa sentenza bomba, però è una sentenza bomba e vedrete che adesso le reazioni dei sindacati, vedremo anche se quelle politiche si accenderanno. Noi adesso ascoltiamo bene di che cosa si tratta, perché con noi Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore, che appunto si è preso la sentenza in mano e oggi l'ha scritta e l'ha spiegata. Poi sentiremo anche ovviamente un segretario nazionale del sindacato del pubblico impiego per capire come reagiscono loro. Intanto grazie a Gianni Trovati di essere in studio con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora, spiegaci un po' questa sentenza, come nasce, a chi si applica e se è davvero così, il titolo è inequivocabile, il tuo pezzo, nuovo articolo 18 anche nella PA. Sì, nasce esattamente dal caso di un dipendente pubblico siciliano, il cui licenziamento peraltro curiosamente è stato giudicato nullo dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione, ma per tutti altri motivi. Il problema è che la Corte d'Appello diceva alla Cassazione: diteci due cose, A, se si applica l'articolo 18 anche ai dipendenti pubblici, B, nel caso voi pensiate di no, investite la Corte Costituzionale del tema, perché può darsi che ci sia una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati. Davanti a questo bivio la Corte di Cassazione non ha avuto alcun dubbio, non ha ritenuto di dover chiamare in gioco la Corte Costituzionale, perché ha detto no, non ci sono problemi, le riforme dell'articolo 18 si applicano anche ai dipendenti pubblici, perché lo prevede il testo unico del pubblico impiego. Testo unico del pubblico impiego, di LGS 165/2001 per gli amanti dei numeri, prevede all'articolo 51 che lo statuto dei lavoratori, cioè la legge del 70 in cui c'è l'articolo 18, dice e sue successive modificazioni si applicano anche al pubblico impiego. Di fronte a una frase così chiara nemmeno la Corte di Cassazione ha avuto dubbi e ha detto che si applica, ha detto una cosa in più, ha detto che si applica automaticamente, cioè a prescindere da eventuali iniziative di armonizzazione normativa. Poi è vero che il pubblico impiego, come dire, su altri temi dello statuto può avere discipline diverse che vengono appunto regolate dalle norme del pubblico impiego, e poi sappiamo che quando questo succede la norma speciale, cioè quella per il pubblico impiego, prevale su quella generale, cioè quella per tutti. Ma questa... Perché sappiamo per esempio che una delle discipline speciali è quella che riguarda magistrati e militari, e questa resta, quindi resta fuori. Sì, esattamente. Parliamo di pubblico impiego contrattualizzato, quindi tutti i dipendenti pubblici, statali e locali, tranne i docenti universitari, i magistrati e i militari. Questo è. Però senza alcun dubbio. Ulteriore precisazione, la Corte dei Conti si riferiva alla prima riforma dell'articolo 18, la Cassazione si riferiva alla prima riforma dell'articolo 18, cioè quella della cosiddetta riforma Fornero, che riduceva molto l'obbligo di reintegro, ma per una sola ragione, perché il caso oggetto arrivato in Cassazione si riferiva all'agosto del 2012, ma il principio che pone è assolutamente generale, principio che peraltro era presente nel dibattito giuridico. Tu hai ricordato Ichino, anche altri sostenevano, no, la applicazione, proprio perché lo dice quella norma del testo unico sul pubblico impiego. Le opinioni contrarie sono ovviamente quelle dei sindacati, ma anche quelle del governo. Quelle del governo che in fase di scrittura dei decreti attuativi del Jobs Act ha ritenuto di dover sottolineare la sua non applicazione ai dipendenti pubblici. Ma come l'ha sottolineato? Con interviste sui giornali, in televisione, eccetera, eccetera. Il decreto attuativo invece del Jobs Act, articolo 1,1, cioè proprio quando comincia e spiega a chi si applica, dice che si applica a tutti, non parla di dipendenti privati. Perché non parla di dipendenti privati? Perché il governo, diciamo così, in forma politica aveva espresso l'opinione che si riferisse solo ai dipendenti privati, ma le interviste in televisione, sui giornali, poi quando si va davanti al giudice non hanno molto effetto, diciamo così. Il giudice guarda norme. Le norme, e le norme hanno una concatenazione abbastanza chiara. Poi si può discutere se è giusto o meno, è come dire opportuno o meno, però le norme quello dicono e il giudice quelle applica. Allora, per essere ulteriormente chiari, cari dipendenti pubblici in ascolto e cari tutti ascoltatori, questa sentenza così netta nel dire l'articolo 18, poiché fa parte dello statuto dei lavoratori, si applica anche ai dipendenti pubblici per a seguito del decreto legislativo che nel 2001 ha portato alla cosiddetta privatizzazione del rapporto contrattuale del pubblico impiego, in realtà leggerlo bene, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che richiamammo quando ci occupammo del dibattito aperto nel governo, in realtà appare in linea, perché io me le sono andate a riprendere queste sentenze. E per esempio la Corte con la sentenza 275 del 2001 che cosa fa? Dice non si applicano ai dipendenti pubblici le regole del privato? No, ammette la possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato, in quanto, e queste sono le testuali parole di quella sentenza, il processo di omogeneizzazione, quello intervenuto appunto con la norma del 2001, incontra il limite della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento di interessi generali. Attenzione, la Corte Costituzionale dice in quell'occasione, ma è più o meno l'indirizzo ribadito in tutte le sentenze che sono state invocate da coloro che dicevano non si applica ai dipendenti pubblici, dice che c'è la possibilità di una disciplina differenziata. Nel qual caso bisognerebbe intendere, come vi ha appena spiegato Gianni, che il governo avrebbe potuto scrivere nel decreto attuativo della Jobs Act esplicitamente non si applica ai pubblici dipendenti. Poi magari qualcuno avrebbe impugnato e si sarebbe pronunciata qualche corte. Ma il fatto è che il governo nei decreti attuativi non ha affatto scritto una norma che invoca la specialità dell'articolo 97, in base a quello, come più volte richiamato dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata su temi come il salario pubblico, il salario privato e così via. La Corte Costituzionale ha detto non è automatico, ci può essere una disciplina differenziata, ma siccome non c'è, la Corte di Cassazione gli dice quindi è automatico che si applica. Quindi cosa significa? Significa che qui il diritto alla reintegra nel lavoro pubblico non c'è più, come automaticamente abbiamo proceduto fino a questo momento, è vero? Esatto, c'è anche una ragione poi perché non l'hanno scritto e hanno preferito appunto sottolineare il tema nelle interviste sui giornali e in televisione, perché nel governo non c'è una granitica opinione a favore di una o dell'altra tesi, per cui alla fine per evitare spaccature, ci ricordiamo per esempio il sottosegretario dell'economia Zanetti aveva detto no, bisogna applicarlo, Ichino è un parlamentare della maggioranza, ci sono parlamentari della maggioranza che sostengono questa tesi, per cui si è preferito, diciamo così, evitare il problema evitando la specificazione. La questione è che quando tu eviti il problema in questo modo, poi il problema ti si ripresenta dopo. Esattamente. In questi mesi, in queste settimane, si stanno scrivendo i decreti attuativi della riforma Madia, quindi l'ennesima riforma della pubblica amministrazione e anche del pubblico impiego. Questa potrebbe essere una nuova occasione di tornare sul punto, ma anche lì bisognerà trovare un'opinione condivisa nel governo e nella maggioranza, e al momento le posizioni sono differenziate. Ricordiamo che a favore esplicitamente del no all'applicazione Jobs Act al pubblico impiego si sono pronunciati i parlamentari del PD, che insomma hanno un certo peso, Cesare Damiano, presidente di commissione parlamentare, lo stesso sottosegretario Baretta disse in più di un'occasione no ai dipendenti pubblici non si applica, e del resto il sottosegretario Baretta ha un viene insomma anche dall'esperienza sindacale, quindi già si capisce che un po' la pensasse così. Però questa è una sentenza, tra virgolette, bomba, cioè senza esagerare, però interviene su un punto fondamentale, quello della parificazione dei diritti e dei trattamenti, a cominciare dall'articolo di riforma del Jobs Act che ha più fatto discutere, cioè l'articolo 18. Allora è con noi per capire qual è la prima reazione del sindacato, di un pezzo quantomeno del sindacato, perché comunque stamattina non ci sono state ancora grandi reazioni, ma la bomba esploderà. È con noi per parlarne il segretario nazionale della Federazione Pubblica della CISL, Giovanni Faverin. Buon pomeriggio e grazie. Buonasera. Allora, sorpresi? Che pensate? Beh, diciamo, sorpresi che il governo si sorprenda, perché è dal 2001 che questa piena contrattualizzazione, visto che ci rivolgiamo tutti a un giudice del lavoro, non c'è più il vecchio giudice amministrativo, avrebbe dovuto indurre a continuare nel cammino, lo dico da cittadino normale, che una persona per bene che lavori nel pubblico o nel privato, dal punto di vista della sfera del suo lavoro, debba essere armonizzata e concretizzata. Quindi, dal mio punto di vista, nessuna sorpresa, e l'imbarazzo, provo a citare tre cose. Come mai dal 2001 ad oggi, nella Biagi, e c'era Maroni ministro, né la Fornero, e ricordo la querela con Patroni e Griffi, né oggi col Giobè, quindi governo centrodestra, tecnico e centrosinistra, non hanno mai voluto approfondire fino in fondo questa piena contrattualizzazione? Perché questo è il punto vero, e le differenze semmai sono che nel caso del privato il datore di lavoro è unico imprenditore, ha assunto la persona, la dimensione, la licenza e ne paga le conseguenze. Nel pubblico, che è un altro punto di rimente, è il dirigente, magari il nuovo dirigente assunto ieri, che non ha né assunto la persona, quindi è il manager, giustamente, il dirigente o il politico. Quindi è l'occasione questa per cominciare a dire, io dico già dalla Biagi, che è bene contrattualizzare tutto e costruire un'armonia che non ci fate aspettare il giudice del lavoro, ma consenta a tutti i lavoratori di avere un impianto unico, perché non può essere unificato solo sul licenziamento, dobbiamo farlo sulle mansioni superiori e su tanti altri elementi che consentono al lavoratore di difendersi rispetto al suo apporto di lavoro positivo. Quindi nessuna preoccupazione, si aprirà un dibattito giuridico, ma la lettura della norma è proprio questa, e il ritardo ormai quindicinale ci fa dire che forse nella riforma Madia, a ragione Trovati, i decreti attuativi non lo prevedono, forse il testo unico, ma qui il punto non è giuridico, se non sbagliamo e guardiamo le norme, è capire cosa vuole fare il governo dell'evoluzione, del buon lavoro pubblico e di quello privato, di consentire alle persone per bene di fare un buon apporto, difendersi, qualificarsi e promuoversi nel posto di lavoro. Però mi pare di capire, non secondario, che la posizione ufficiale, o meno quella che sta esprimendo lei, è a favore di una piena parificazione addirittura, cioè approfittare per esempio le norme attuative sulle responsabilità disciplinari, però quelle sono più o meno quelle del 2008-2009, non tanto cambiate, ma la mobilità per esempio e così via, che sono appunto in attesa di attuazione della riforma media, per dire parifichiamo davvero, contrattualizziamo tutto su piede paritario, ho capito bene? Ha capito bene, ben sapendo che ci saranno scoglie e molte resistenze delle persone e di qualche portatore di interessi, ma così rimaniamo in un guado strano dove sembra che il governo abbia paura di andare oltre per una questione ideologica e non affronti l'essenza vera, che ormai è questa, lo vediamo sul piano economico del paese, di che servizi pubblici si può permettere, di quanti dirigenti, di come devono agire rispetto alle policy, perché questa è una questione innovativa se vogliamo portare per la carità. Pubblica amministrazione fuori. No, per carità, chapeau, se questa è la reazione, questa è l'azione della CISL, non ho la pretesa di dire che la reazione della CISL è l'azione del sindacato, noi abbiamo chiesto anche alla CGIL, purtroppo la segretaria della funzione pubblica non poteva, ma vedrete che nei dibattiti i prossimi giorni recupereremo, quindi non c'è una scelta politica, io devo dire la prima richiesta che ho fatto è la CGIL, immaginando una reazione magari un po' diversa, però ripeto, intanto questa è la posizione della CISL, torniamo tra un minuto perché c'è un'informazione stradale, perché vedo qualche telefonata. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, abbiamo sentito sentenza della Cassazione, il nuovo articolo 18 si applica anche alla PA, non c'è dubbio, è automatico, sia le riforme introdotte dalla riforma Fornero, sia quelle ancora più avanzate sui meccanismi di risoluzione economica del rapporto di lavoro senza reintegra, anche per il pubblico impiego, piena parificazione. E il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL, Favenincio, ha detto accettiamo la sfida, valga per tutto, ma è bene così anche di fronte ai cittadini. Il governo ci faccia sapere, però è bene così. Devo dire, nell'interno del PD questa roba non è di comune opinione, almeno non lo era un anno fa, vedremo adesso qual è la reazione alla sentenza. Intanto sentiamo alcuni di voi, cominciamo con Luca da Bologna. Luca, prego. Sì, buonasera Giannino, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì, figurati. Guardi, alla luce della sentenza che avete citato e dei decreti attuativi della riforma Madia addirittura d'arrivo, volevo sapere se i vostri ospiti e lei ovviamente pensate che tali sviluppi possono essere applicati anche al personale delle forze armate alla luce, diciamo, della specificità riconosciuta al comparto sicurezza e difesa. No, abbiamo detto che alla luce della disciplina da sempre vigente su questo, per i professori universitari, per i magistrati e per forze armate e comparto sicurezza, no. Questo è quello che dovrebbe essere confermato, è vero Gianni? Anche sì, sì, assolutamente così, perché questi comparti sono fuori dalla cosiddetta privatizzazione o contrattualizzazione del pubblico impiego, quindi seguono regole proprie, hanno una disciplina speciale propria che continua tranquillamente a vivere come viveva. Sono estranei quindi all'applicazione appunto del decreto legislativo 165 del 2001, quello che viene richiamato sotto, diciamo, la sigla giornalistica privatizzazione dei contratti del pubblico impiego, a cui faceva riferimento anche Giovanni Favrin quando diceva dal 2001 che in realtà i governi di tutti i colori, tecnici, destra o sinistra, non capiscono che questa cosa va portata alle estreme conseguenze, ma esplicitamente, no? Avete sentito che Favrin, che resta con noi e magari commenterà qualche vostra telefonata. Enrico da Roma, come la pensa? Enrico? Buongiorno, sì, no, io semplicemente volevo dire che per me è vergognosa questa, soprattutto il comportamento del governo, prima ancora che della sentenza della Corte di Cassazione, perché una cosa è l'immissione del pubblico dipendente attraverso un concorso pubblico, un'altra cosa è l'assunzione di un dipendente privato attraverso colloquio. Sono due cose completamente differenti, quindi io non riesco a capire, credo che sia inaccettabile tutto qua. Quindi, secondo lei, l'articolo 97 della Corte Costituzionale, della Costituzione, quello appunto sull'imparzialità, gli obblighi di imparzialità della pubblica amministrazione, da cui discende appunto anche il meccanismo di assunzione concorsuale, trattino non applicato però per parte rilevantissima del totale di 3,2 milioni di dipendenti pubblici, non ce lo dimentichiamo, perché gli ingressi in ruolo ope legis si sono sprecati nei decenni, la responsabilità è della politica ovviamente, non dei lavoratori, ma è così. Però trattino lei dice questo è il principio, e questo principio dovrebbe per conseguenza non giustificare una sentenza come quella della Corte di Cassazione di cui parliamo, e che è una novità, una vera bomba per così dire. Stefano da Monza, come la pensa? Sì, buonasera. Dica. Allora, io sono un ex dipendente pubblico, ho lavorato quasi 10 anni in un ospedale pubblico, adesso lavoro per un privato e tuttora sono favorevole alla riforma. Quindi, a questa riforma, la parificazione. Cioè, quindi lei dice che la Cassazione va benissimo. Sì, sì, già quando ero dipendente pubblico sostenevo che il dipendente pubblico era troppo tutelato, era ingiusto nei confronti di chi lavora nel privato. Allora, la ragione di equità è quella richiamata da questo nostro ascoltatore Stefano da Monza. Faverin, tra i vostri iscritti, la ragione di equità prevale rispetto a quella della specialità dovuta alle funzioni e alla finalità del pubblico impiego, cioè è una convinzione maturata e assolutamente condivisa quella che ci ha espresso prima, oppure non ancora? A mio avviso sì, prevale perché la stragrande maggioranza sta controllando e guardando alle tante opportunità perse in questo regime misto che non consente alle persone di avere un'evoluzione professionale, una misurazione, una qualità e anche un risparmio del lavoro che fa, e questo è importante. E magari poi implica anche stare 5 anni senza contratti. Bravo, perché implica anche questo. Allora, nella parificazione c'è tutto, la possibilità appunto anche di poter ricorrere rispetto alle mansioni superiori. Lei dice è diffuso, vedremo nei prossimi giorni. La domanda che devo fare, una domanda sulle previsioni, a un giornalista è un po' difficile fare, ma bisogna farla. Però Gianni, che dici, con quei 300 milioni nel pubblico impiego per i nuovi contratti al governo, oltre a questa sentenza, non si crea un problemino aggiuntivo? Con quei 300 milioni si crea un problema molto più grande dei 300 milioni che hanno messo sul piatto, anche perché naturalmente dopo anni di blocco contrattuale crescono, diciamo, le esigenze legittime o no. 300 milioni ovviamente non bastano a spegnere queste esigenze, e di conseguenza vedremo una lunga stagione di trattativa. Allora, per il governo come si vede un problema in più, però la mia opinione, grande Corte di Cassazione, se posso dire come la penso io. Detto questo, vedremo quali saranno gli sviluppi delle reazioni dei sindacati e altri partiti. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con Alessandro Milano, ovviamente attenti a noi due. We'll be right back.